perché non lo sai. Non hai la stoffa quanto basta, partecipa a un'altra corsa se vuoi restare a guardare. Preparati a prendere una scossa, questa è la mossa più onesta per scaricare la voce in cassa. Dissipatore per l'attenzione che ogni giorno si ammassa, lo sguardo abbassa, tieni giù la testa, inchinata avanti al superiore, alla sua richiesta, mettiti in lista. La voce di un pistolero veloce con una mano lesta ti fa la festa e quindi rilassa la tua meninge, sfeggi per un turista. Non è una predica, questa è una dedica, un gergo sonoro dal cuore caro solo per chi merita. Forse è una tattica, ti dà la carica, diventa magica. Mi provo da capo a parlare, poi dopo a reppare finché non scarica. Peppe, le nostre mani si allacciano strette, un patto da omega riunito di fare tutto quanto in resta fette. Per chi ti sta vicino, ma indegnamente ti punto mirino, si sgretola una calcola mentre carico un giro e me lo fumo, stai pur sicuro. Non lascio che bussi alla porta, allo spioncino non c'è mai nessuno. La marcia in grano per un posto lontano, ti voglio vicino. La festa parte dalle porte senza più un guardiano. Frasi, parole, per trasmettere